il baracchino sta funzionando, era riferito allo Smith, perché ti sto arrivando dei controlli di 3 e 4, io ti ho chiesto quanto sta arrivando, e tu mi hai detto 4, ho detto saranno 4, radio 5, mi hai detto, e tu quanto sta arrivando, 9 più 10, 9 più 15, in certi passaggi, e lui ha fatto la battuta, l'ha perduto, ma era riferito al coso, allo Smith, non era assolutamente all'antenna, non per difendere a nessuno, tra parentesi. Danilo! No, ma infatti io non voglio bisticciare con nessuno, perché devo bisticciare? Cazzo, mica mi hanno accoltellato. Danilo, presente, l'ho fatta io la battuta, ma l'ho fatta scherzando, tu forse hai frainteso. L'ho fatta scherzando, ho detto non è possibile che abbia questo segno, l'ha fatto di tutto. Ma l'ho detto così per scherzo, non per offendere a nessuno. No, ma infatti, quando dite anche scherzando, dite certe cose, fate anche almeno il nome di chi lo sta dicendo, perché io non è che sto ogni giorno attaccato alla radio a capire chi sta parlando e a capire chi è, capito? Sì, vabbè, te lo dico, sono già vedo più lungo. Ah, ok. Comunque l'antenna è perfetta, non ti preoccupare, è lo Smitter che è tutto quanto per i fatti suoi. No, infatti ero riferito allo Smitter, perché tu mi hai detto Santiago 4, non è possibile, non è possibile che arrivi questo segnale, forse lo Smitter che non sta andando bene, te l'ha detto anche Roberto, che era lo Smitter che forse non andava. Sì, è lo Smitter che non sta andando, Gianni. Comunque, vedi, adesso come stavi parlando, mi stava dando 3, 3 e mezzo. Gli ho tirato un colpo e è salito oltre i 9. Sì, ma non ti devi offendere, era una battuta, basta, non era una cosa offensiva, capito? Lo diciamo sempre, la fate tutto! No, ma non mi sono offeso, stavo solamente dicendo chi è stato a dirlo perché non mi ha detto il suo nome. È dato per capire chi era la persona. Cioè, infatti io adesso ti ho sentito, non avevo ancora acceso, c'ero sul 12 per la verità. Ho girato e ho sentito questa studia, no, cioè entro, glielo dico, non c'è nessun problema. Sempre Gianni, sempre tu sei già sceso, sempre Gianni. Il coltello ci vuole. No. Danilo. Danilo. Sì, mi dimmi. Tra parentesi, non per difendere Gianni che non lo posso vedere, sempre tra parentesi, c'è l'antenna quella la tua Gianni, per cui il discorso dell'antenna non sarà riferito soltanto allo Smith, te lo garantisco. No, non ti preoccupare, già non mi azzuffo per queste cose. Magari buttacelo, fa ragione a buttarcelo questo Smith, perché è tutto quanto per i fatti suoi. No, non ne ho problemi di buttarcelo, ne ho un altro di riserva. Però io non mi... siccome me l'avevano dato uno, Luca me l'aveva dato, per farvi capire, di una radio che aveva smontato e aveva recuperato dei componenti. E in poche parole, non mi ricordo se l'avevo piazzato oppure no, il nuovo. Adesso, siccome ce l'ho anche davanti, quello smontato, adesso voglio capire qual è dei due quello che funziona e quello difettoso. Ma quindi non è il tuo lo Smitter? Non è il tuo lo Smitter, Dani? Non t'ho capito, Claudio, ripeti? Ho detto che non è il tuo lo Smitter. Sì, in poche parole me l'ha regalato. Solo che devo ancora vedere qual è il nuovo e il vecchio. Perché io l'altro giorno l'ho preso la radio, l'ho aperta, l'ho cambiato lo Smitter, solo che non... a volte sale, a volte non sale, a volte a te ti prendo anche 9,20 Claudio, a volte sale di picco, però a volte manco si muove, a volte rimane a 3 fisso, no, non lo so. Tu guarda, se lo vuoi mettere a posto con lo Smitter me lo dici, aggancio l'amplificatore, ok, ti giro la direttiva dove sei tu e vedi che lo sblocchiamo subito, non mi hai capito, ti ho detto non è tuo quello Smitter perché hai detto che è di riserva, quindi è di Antonio quello Smitter, così. Di Antonio? No, non è suo. Era una battuta. Vai Giulio che stavi chiamando Gianni. Ok, no, adesso viene contesto uno io di segnale a Gianni. Gianni, ieri qualcuno ti ha dato 9 più 30. Quando lui qui arriva, Santiago 2, Santiago 3, quello sì che lo smette da buttare via. Già mi hai capito? Sì, anche a me è sembrato, infatti ho detto scusa, mi puoi ripetere, se non so se ti sei reso conto. L'ho sentito anche io, testimone. Pazzesco, capo. Non è possibile, va bene, comunque, cose che succedono, sia mi esami che è la cosa più importante. Vai Natali. Aspetta, attimo che sono impegnato all'altro giro giù. Salido. Io lo so che a lui lo dico no, però mai i segnali ce li ho memorizzati. Se arrivo dai 9 9 5, se attacco 9 15. Ma ieri Marco 9.30, capito? Mi sembrava strano. Vabbè, voi avete nello smettere al contrario. Dani, mica ti sta chiamando Roberto. Kappa Kappa! Dani, vedi? Dani non c'è, chi è questo Kappa Kappa? Kappa Kappa! Ehi, avanti, chi è? Il più forte qua, Kappa! Vai, la Basilio, ci va l'acchino, vai. E poi andi un microfono giro. Di 30 anni col microfono Luca, ti avevo detto che se lo butto sotto casa tua va bene, claro, dai, dopo un po' dopo devo salire da quelle zone, dai, lo butto nel cassonetto dove butti la mondezza. Luca, Dani, ascoltami, Luca, lampade di tutto. Vabbè, da me non mi dicevi in baracchino uscire come te chiesto, non ci dovrei entrare armati uguali. Vabbè, mi adatta che ne tena giù uno e ne va di ba tre. Uno e va di ba uno, non ba tre. Sai cosa la riflessa? Tu sei ricco, sei un buon, ma non posso permetticla. Cosa posso fare? Ma contento di un poco? Sì, non sta contento di un poco, però hai pagato un sacco di soldi. E comunque sto scherzando, non ti scaldare. Rilassati. Che a me non mi devi prendere la voce, hai capito, Bob? No, mica mi sto scaldando, non finiti i seguitini, più... Anche perché non ci abbiamo più l'età, capito? Io ti ho detto una cosa, che quel baracchino va bene, va benissimo a Di Gugliatti, però a me la radio che piace è tua e quella che stai usando la Marina, ed è un vero peccato che non ce l'hai lì. Io avrei invertito, guarda, mettendo un'antenna seria lì da Marina avrei invertito, messo quello lì e a casa tua avrei messo quello semplice che usi perché c'è una radio bellissima. Comunque, tu sei proprietario, tu sei padrone, tu sei puoi fare quello che ti piace. Avanti Gianni, riprendi. No, ce l'ho qua, mi tempo di, siccome me ne sono uscito sabato e ho lasciato tutto il letto all'aria, dai. Adesso mi rifaccio il letto, perché mamma purtroppo no, se non me lo faccio io, mamma non ce la fa, non ce la fa più. Ci fa il suo, a malapena, e sistemo il tutto e poi attacco l'altro, dai. Questo è lasciare perdere. Mi avvocato difensore. Tanto sto scherzando, Luca. Eravamo su questo argomento di lampade di tutto, ti ha giudito lampade di tutto. Capito, anzi Boganino da giudito. Per me puoi lasciarlo tranquillamente, non mi dà nessun fastidio, assolutamente. Cos'è che vai tu? Ma dici, ci dato mare? Ah, è lampadina, c'è radio. Allora, sai cos'è il discorso qua? Pongo Ghito mi dice che ci troppo volte abbassa. Pongo Ghito, ma chiso, che cazzo di malacchio oggi buio, ancora l'ho compreso, Adesso, siccome ho le connessioni del Mobicom, attacco il Mobicom, tanto quello colpi non le prende, l'ho fatto già le prove, non i piglia blu, pigliami quello più difficile con il Mobicom. Se riesco a farlo andare con questo microfono originale, uso quello. Ora mi sono fatto altri 1.900. Ma io continuo a dire che se mi siete, se staccate le cose perché vi dicono abbassa o perché vi dicono alza, capito? Noi stamattina stiamo facendo le prove, o con lei le abbiamo fatte stamattina, sì, con Massimiliano. Qualcuno ha detto che Massimiliano esce male con il baracchino che abbiamo fatto le prove, non è assolutamente vero, cioè bisogna essere coerenti nelle cose, perché a me nessuno mi può dire quello che devo fare, punto e basta, e non lo ripeto più. A me mi va di modulare così, con questa radio, con questa potenza, e uso questa radio con questa potenza. A chi non le piace, ci sono altri 39 canali, non è detto che per forza parlare con me, sia ben chiaro, una volta per tutte. Ma cazzo, ma ti pare che io mi devo privare di usare la mia cosa perché a te ti sto sfasciando le orecchie o perché abbassa, abbassa, cambia, abbassa? Ma cosa ci dicendi? Te l'appoggio. Io ti buco l'antenna. Te l'appoggio. E questo è riferito a una è riferita a te, vabbè, lo sai che io poi la lingua non ne ho. Ogni volta che entri, abbassa, regola, tira, ti controllo, ti provo, ti cerco, ti stiro e ti ammiro. Ma fottidini, abbassa il volume, boh. Ma il problema lo sai, non sei solo tu già, ecco là. Tu mi sfasci le orecchie, gli altri devono alzare il volume, io mi ho preso l'ottite, ho già un problema all'orecchio, ho fatto l'alternata e mi va sotto. Le cose sono due, o mi tappo con l'orecchio, o mi metto due altoparlanti, quando parli tu attacco l'altoparlante e basta. Ma è 40 anni, vabbè, che io uso questa radio, cazzo, non lo so se il coronavirus che sta facendo male. È 40 anni che io uso questo tipo di microfono, o più alto o più basso, ma la mia timbrica è sempre questa. Il problema è che è entrata un sacco di gente dopo tanti anni con dei baracchini normali, dei microfoni normali, con delle timbriche sicuramente inferiori alla mia, ed è chiaro che in queste ho in 10 persone, in 5 persone, in 4 persone, io ho la modulazione rispetto agli altri molto più alta, e quindi abbassa e tira e molla e quello. Luca c'è una modulazione che non dà fastidio a nessuno, nel modo più assoluto, bellissima, fortissima, bella, cioè a me piace, mai io mi sono permesso di dire lui abbassa, ma di cosa si può far vedere? Va bene così, dai, diamoci una calmata, una regolata, ognuno è libero di usare la radio come e quando vuole, a livelli bassi e a livelli alti, o in prove tecniche di trasmissione, oppure in prove tecniche definitive come le mie, quindi a me non me ne affutti nulla, capito? Questa è una parentesi, era bello, sai che io non ho problemi, dico le cose al naturale, però se ti devo dire la verità, tu sei una di quelle persone che stai sempre regolando i microfoni e dicendo abbassa, tira e molla, capito? Anche a Massimiliano stamattina ti sei messo a regolarlo con quello strumento, è chiaro che con lo strumento le dai una cosa più definitiva, ma per me, come ti ho già detto, a orecchio potevo anche tenerlo molto più alto, perché va bene lo stesso, lasciamo perdere gli strumenti, le precisioni, siamo tutti cipitosi, siamo tutti niente, che non ha nulla, quattro radio gaggati per farci due chiacchiere, gli strumenti lasciamoli usare nei laboratori, vero Gabbo Emanuele? Claudio, ti devi attendere a fare di per niente, ognuno è libero di fare quello che vuole, l'ho sempre detto, se mi chiedono parere io lo do il mio parere, e poi se uno lo vuole ascoltare lo ascolta, se non ne ha fatti nulla non me ne chieda, lo dove ti dica, e qui finisce la polemica, che non me ne ha fatti nulla, tra parentesi, ti sto solo facendo un'osservazione che tu ce l'hai molto alta e per me è troppo alta, se ti piace alzate ne dita, se poi mi dà troppo fastidio mi abbasso il volume o mi sposto di canale, ma finisce qua il discorso, non voglio polemizzare con nessuno, purtroppo quando proposta io lo devo dire, se pure a voi vi piace neanche un altro discorso, è come l'eco, vi piace l'eco, a me non mi piace, mio parere lo posso dire, no, non penso che ci sia niente di male. Assolutamente, ma hai detto infatti le cose giuste, ognuno fa quello che vuole, non è una polemica, vabbè, è un controbattere al discorso che stiamo facendo, tu sei uno di quelli che appunto ha questo problema di abbassa il microfono o cambia microfono che è troppo alta, assolutamente, non è una pecca, non è un difetto. È una cosa che tu hai, è tua naturale, ok? Va bene, chiuso il discorso, l'abbiamo aperto e chiuso, avanti Massimiliano, sei l'ultimo entrato, poi vai per Gianni. Sì, dai, rimango un po' in ascolto, va. Mi sto finendo a fare una cosettina e riprendo subito. Va. Danilo, c'è ancora Danilo? Ben sentito, va, ti ho salutato poco fa, me l'ho rilanciato, quindi non ti ho salutato. Va bene, dai, vola con Rix, sempre con Rix, siamo qua, quando vuoi rientra, le lancio tutto quanto a Giulio, poi non so, c'è un fare anche così. Danilo. Ah, il doppio Roma. Sono rattaccato. Oh, non si sfugge, non posso fare il monello che subito mi beccano. Io c'ho l'occhio vigile. Ciao a tutti che è entrato, là. Io sono ancora avanti e indietro, finché non lo trovo, oppure mi giro le scatole e pazienza, me lo ordinerò. Claudio, bello, però come hai letto, sfondo scuro, per la mia vista non è ottimale, anche se fosse retroilluminabile. Cap. Sì, è retroilluminabile, c'è l'attacco per illuminare. Vabbè, io te l'ho fatto vedere, poi chiaramente vedi tu, anche l'altro. Chi me l'ha chiesto gliel'ho fatto vedere, mi ha detto lo vorrei con lo sfondo che si vede di più, e quello è, non è uno strumentino giocato, quello è un bello strumento professionale, te l'ho detto, c'è la sonda Revex dietro, che è di una precisione allucinante. Giulio, riprendi e fai girare, scusa se ho fatto il polemico. No, assolutamente, ci va che altro. stata una chiarificazione, basta. Ma sempre quello, anch'io, qui c'è Gianni, ruota con noi, e lui è testimone di quello che sto per dire. Io ho sempre detto, a me l'eco non mi piace, o meglio, tu lo vuoi usare, usalo, perché sei padronissimo di usarlo quando vuoi e come vuoi, non me ne frega niente. Però se mi chiedi personalmente, ti piace quest'eco, o meglio ti piace questa radio con l'eco, io ti dico subito no, non mi piace. Però non ho mai detto non mettere l'eco, perché, no, no, perché fa piacere a me e, non, e magari fa piacere agli altri sentirlo. Io ho la stessa idea tua, la penso allo stesso modo. Oh, se non mi piace mi cago muto e basta, abbasso il microfono, casomai mi dà fastidio se non lo sento, quello sì, vedi, quello già mi dà fastidio. Quando c'è qualcuno in ruota, già che noi siamo magari alcuni minuti senza parlare, perché c'è qualcuno che è bassissimo e non riesco a sentirlo, quello mi dà fastidio. Infatti stavo pensando anch'io di rimediare a questo problema, ad esempio con un amplificatore antenna, sempre che non aumenti anche il QRM, anzi lo aumenta senz'altro, sarà difficile ugualmente sentirlo, però ognuno cerca di arrangiarsi come può. Facciamo girare avanti, Gianni. C'è anche Danilo, c'è ancora Danilo. Scusate un attimo, sono attaccato. Sì, già ci sono ancora. Ciao, come senti? Aspetta, no, non è una cosa Danilo. Dimmi. Allora Dani, lo stesso problema non mi ricordo che ce l'aveva dello smitter a vano, siccome c'è un trimerino di regolazione, magari quel trimerino si sarà un po' ossidato o cosa, con un cacciavitino alta induttivo ti va a andare, ti fa confronto con qualcuno vicino a te che c'è il segnale, dici quanto lo ricevi, fa la regolazione, tanto è millimetri, cammina tu, che appena magari non c'ha niente lo smitter, è soltanto il trimerino di regolazione, devi sapere qual è il trimerino. L'altro giorno uno lo stesso c'aveva lo stesso problema, ha sistemato tutto, rientrava tutto nel dei valori, diciamo, abbastanza crediti. Ma in poche parole, questa roba dello smitter, il segnale che ti arrivo io mi dovresti arrivare anche tu, in teoria. Diciamo, a parità di antenna e a parità di potenza, teoricamente dovrebbero arrivare più o meno nello stesso livello. Tu, diciamo, io magari sto spingendo di più, c'è un'antenna più grande della tua, sicuramente ti posso arrivare più forte, ma non può andare da un 4 a 9 il segnale, cioè non esiste, ma che io non gli do 200 watt e tu ne dai 3. No, sì, già ti ho capito come quello che mi stavi dicendo, però io ti stavo dicendo lo stesso in parità di antenna e di potenza. Sì, già quello già l'ho capito, ma in poche parole, mettendo io 10 watt e tu 10 watt con la stessa antenna, dovremmo avere gli stessi valori, giusto? Diciamo di sì, abbastanza, dai, teoricamente sì, dai. Però naturalmente le misurazioni non si fanno con questi smitterini giocattoli, ci vogliono cose un pochettino più sofisticate, però diciamo un Santiago di 9 uno lo riceve, l'altro più o meno lo riceve 9 o un pochettino, 9, perché si fa strumentalmente, si dà un ingresso di un segnale di un certo valore, e a Santiago 9 deve avere 150 millivolt, bastano 105 microvolt, non millivolt, cioè un 150 microvolt con lo strumento deve segnale Santiago 9, però possiamo fare le indicazioni anche a occhio, diciamo, uno per dire quanto arriva Claudio di lì in quella zona, ne arriva più o meno 9,20 e tu fai più o meno 9,20, tanto per dare un'idea. Ah, no, comunque stavo pensando io adesso di spegnere un attimino la radio e accendermi il veicolare, il portatile, e provare a cambiare lo smitter e vedere se è lui o non è lui. Lo smitter si può anche tarare, può essere per aver preso anche un segnale troppo forte e magari si è rovinato. È uno strumento ad ago, tra l'altro c'è una parte mobile, per dire se è dato un contraccolpo troppo forte, magari qualcuno sotto casa o tu per sbaglio con l'altro baracchino lo ti sei accorto che era sullo stesso canale, quello era acceso, gli ha dato un colpo di portante e lo puoi rovinare, perché puoi bruciare lo stadio d'ingresso che indica lo smith, però sono cose che si risolvono, non è niente di grave, la radio sta funzionando, l'antenna sta irradiando, per cui il segnale tuo è forte, il problema è solo dipende dallo smith, può essere installato lo smith oppure anche rovinato, da verificare, si risolve tutto tranquillamente. Ok, avanti Antonio, riprendi. Era strumento è semplicissimo come funzionamento, c'è una bobina, c'è un campo magnetico, a seconda della tensione aumenta, c'è la resistenza, a più gliene dai e più sale. Però quando sono piccolini gli aghi degli smitter sono più sollecitabili e più si rovinano più facilmente rispetto a uno strumento con un ago molto più grande, con un'inerzia molto maggiore, con un campo di movimento molto maggiore. Quelli piccolini, quelli soprattutto tipo alla 48, che sono a lancette verticali, non ad ago, cioè che si oscilla nell'arco di 180 gradi, quelli che salgono dritti, quelli sono un po' tranquilli. Giulio. Ok, riprendo io, ciao a tu, ben entrato in ruota. Come mai così basso tu? Non ti ho mai sentito così basso di radio, sto parlando di radio a tu. Avanti. Anto, quasi non ti sento nel radio, sei molto basso nel radio, quasi non ti sento, lasciando tanto tempo spento, alle volte succede anche questo, vabbè, comunque già rimedierai, già nel corso del QSO già rimedierai sicuramente, ti farai sentire. Avanti Gianni. Ciao Antonio, mi hai sentito cordialità, dai. Vabbè, come mai non ho capito, come mai stai scendo più basso del solito di radio? Io quello lo ricevo quasi uguale, un pochino più basso, però non molto. La radio microfono, non so forse c'è qualche altro microfono, il segnale già è suo, però la radio è bassa. E magari la batteria che sta partendo. E magari si sta aiutando, sta un pochettino saturando, non penso, perché non è saturazione, è proprio più bassa la radio. Qua io ce l'ho vicino e non mi satura niente. Comunque mi deve l'aperitivo, ma va a arrabbiata, è una puttana siamo della radio, figurati. Ciao. Oh, yeah. Tu stai facendo un ammanello, quindi Marco, lo vedi, se ti stai prendendo la forza di frequentare questa gentaglia in questo canale, pure tu stai diventando moneta. Sempre in HI, via. No, vabbè, visto che ce l'ho ogni tanto facciamolo lavorare, se no la roba lasciala ferma si rovina. Certo, in città non è necessario, ma... Bene, niente da fare, comunque niente da fare. Lo strumento è da considerarsi definitivamente andato. Quindi sarò costretto a regalarmi questo favoloso Daiwa CN901 HP. No, quello che sta dicendo Claudio è un bel giocattolino, poi 50 euro anche un buon prezzo. L'ho visto, però sai cos'è? Il display scuro è una cosa che proprio non mi piace. Io ho sempre avuto il display chiaro, poi sai cos'è? Il Daiwa ce l'ha luminosissimo, anche senza retroilluminazione è luminoso lo stesso. E poi che altro? Poi sai, lo volevo nuovo per via della garanzia, in caso di malfunzionamenti iniziali. Nuovo, sai che è nuovo, no? Esce dalla fabbrica, eccetera. Va bene, riprendete, scusate l'introduzione. Ce l'ho do io, Marco, te l'ho detto che ce l'ho. Ed è dentro la scatola, praticamente in tonso. Invece cercate qualche commutatore antenna buono, però. Natali, sì, ho copiato, però volevo andare più verso uno strumento più grande possibile, per via della vista che non mi assiste tanto come una volta, capito? Strumento grande, quello già è considerato veicolare, Natali, per quanto buono fosse, ti assicuro che era buono, lo volevi più grande lo strumento. Inoltre la sezione accordante non la userò più, non mi interessa più la sezione accordante, quello accorda pure. Tanto già lo sai, no, l'857 è andato, è tutto andato, quindi ok, dai. Chi altro c'è? Oh, scusate un attimo, Roberto. Oh, io, dimmelo. Ma sei sicuro di aver preso i fili giusti? Qua la carta non me l'hai segnata. Allora, quello centrale, Luca, non centrale, non è collegato. Oh, mi pare strano. Qua ci sono sei fili, di cui la calza, bianco, verde, blu, azzurro, come lo vuoi chiamare, rosso e nero. E la calza come mai non me l'hai segnata, non c'è segnata nel foglio. Scusa, no, che esco un attimo, dai, vi lascio un pochino, ci sentiamo più tardi, ok? Sia che mi chiamate non rispondo, ripeti. Ehi, ciao, qua ci sentiamo. Non so, boh. Allora Luca, quello che ho preso io, guarda, mi voglio togliere pure lo sfizio, non è smonto quello dell'Intec, che tanto sono uguali, del Multicom, sempre autopuli, esatto, che forse c'ho, aspetta che c'ho un altro, ma non è originale, c'ho un M93 c'ho io di quell'apparecchio lì, però quello è stato adattato, no, come non detto. Però Luca, il centrale, il numero 6, non è collegato, come si chiama? E non è necessario avere tutte quelle connessioni, Luca. In nero dovrebbe essere la mazza. La calza c'è per cosa? Per bellezza nel capo. No, non sono quelli in oro, mi pare strano. Cioè, non c'era la calza nel connettore saldata? Assolutamente no, anche a me mi stava fregando. Il numero 6, ho detto, prima avevo segnato calza, quando l'ho segnato la mazza. Invece no, in quello non è collegata ed è vuoto. E ci hanno messo un tubicino di trasparenza, tipo quelli per coprire auto restringenti, però in PVC, infilato dentro ed è isolato quello lì, per non toccarsi con gli altri. Sono collegati solo quelli lì, probabilmente la massa è il nero, che non mi ricordo che numero era, il numero 3 forse, Ma non è che il nero e la massa vanno assieme, no? No, erano solo colori, non ce n'era di massa, ma tu l'hai provato a collegare, Luca? Io mi ricordo che avevo collegato tutti e sei, ecco perché te li ho chiesti, tutti e sei, roba. C'ho sei fili qua, sei fili devono essere collegati, e vabbè, dai. Ci provo, ma sarà difficile. Prova così come l'ho collegato io. Ti sto dicendo, non ce n'è di calza, Luca. Sono solo colori. Perché io, quello di mezzo, mi ha fregato anche a me. Ho detto, e questo di mezzo è la calza, la massa. Ho guardato bene, ho detto, no, qua non c'è niente, è vuoto. Infatti ti ho messo che è vuoto. Ma dimmi, quanti ce ne voglio? 5, perché non bastano. C'hai trasmissione, ricezione, canale salire e canale ascendere. Trasmissione, ricezione, up down, e poi, vabbè, la massa. Appunto, sono 5 in tutto, anche in voi, sì. Qua mi ricordo che erano 6 collegati, non 5. Ma come ti sto dicendo io, se poi ci sono dei dubbi, almeno quello lì era collegato così. Li ho scritti proprio posizionati, 1, 2, 3, vabbè, lo leggi anche davanti, quello che c'è, guardalo davanti, mi Luca. Vabbè, c'è il numero, non c'è da sbagliare, non so che mai qualcuno lo fa al contrario. E lo provi. Dovrebbe funzionare, almeno quello lì è originale, non è mai stato aperto, proprio le viti chiuse, sigillate con tutti i coso, le restringenti, anzi non ha neanche restringenti, ci hanno messo quei tubicini trasparenti in gomma. Ho capito, vabbè ci provo, riprendete. Il nero secondo me è la massa, il nero di quello lì, e la carta non la stanno utilizzando perché stanno utilizzando quel filetto di nero. Ok, vediamo un pochettino che è rimasto qua su questo canale. Antonio, ci sei ancora? Giulio? Sì, io ci sono. Oh Marco, se mi stai ascoltando, apri il telefono e guarda su WhatsApp, guarda se ti piace quello, il rosmetro e il vaxmetro, quello lì è abbastanza chiaro come quadrante, bianco e leggibilissimo. Anche se devo essere sincero, a me mi piace più quello ad aghi incrociati, però questo è molto chiaro e dunque quello che stai cercando tu, la visibilità, la chiarezza nella visibilità dello strumento. Va bene, dai, facciamo girare. Danilo? Non è arrivato nulla ancora, già arriva, è in viaggio. Giulio? A dorso di mulo arriva il messaggio. E allora, dimmi Roberto. Allora, se vuole solo visibilità, ma non qualità, perché a livello di visibilità quello TM1000 è un giocattolo, però si vede benissimo, bianco, bello, due strumenti, uno per la potenza e l'altro per il rosso, è bellissimo, però a livello di qualità di cosa è una scatola in buco. Guarda, adesso ti è arrivato Marco, e costa anche poco, questo costa 79 euro, dunque risparmi anche, ti avanzano i soldi per comprarti una birra anche. E quale sarebbe lo strumento che stavi dicendo tu o Roberto? Quello che c'è tu, il TM1000, che a livello visibilità lo vedi anche da un chilometro, perché c'ha gli strumenti grandi, bianchi, con il coso, doppio indicatore, sia potenza in contemporanea che rosso, però è un giocattolo, cioè sono indicazioni molto, ma molto, così, soprattutto la potenza è un bel generoso. Il rosso magari più o meno già va bene, però la potenza è troppo generosa. Sì, io ce l'ho quello, TM1000, sì, è doppio strumento, però è uno ZG, non è professionale o robe. Io ce l'ho, anzi ne ho un altro anche, HP, non me lo metto mai, come se HP 30, una cosa del genere, anche quello fa da accordatore, sono tutti e due da accordatore. No, uno professionale, quello che gli ho mandato io come fotografia, un diamondo SX200, è abbastanza bello e soprattutto è a livello professionale quello, perché ho visto anche su YouTube quelli che costruiscono radiobatturi eccetera, che utilizzano molto quel tipo di strumento, SX200, da 1,8 a 200 MHz mi sembra che fa, se ricordo bene, e va bene, ok. Avanti Gianni. Sì, io ho l'HP1000 va molto bene, sia in potenza che col rosso, va benissimo, e dalle potenze giuste, anche perché io posso farlo anche con l'apparecchio, controllare, mi dà le stesse misurazioni. Non sarà professionale, però bene o male, dai, si avvicina. Io l'SX200, è un bombo, funziona benissimo. Quello della Diamond, quello tuo Gianni, ci avevo messo le mani io, se no non serviva a nulla. Che è uguale all'accordatore che avevo io, quello che hai tu già, quello americano, tanto per intenderci. Capa, quello che ci aveva la vite per girare, me lo ricordo. E beh Marco, l'hai visto? Giulio, sì, ne avevamo parlato anche l'altro giorno e lo conosco anche come strumento, però, c'è il però, allora la copertura di frequenza uguale è buono, lo strumento è più piccolo comunque, per me è piccolo, e poi non mi piace che ogni volta che ti sposti di frequenza devi tarare il fondo scala, quello ad aghi è perfetto. Perfetto veramente, pensa, io sono talmente mandrone che non ho voglia neanche di tarare il fondo scala quando cambio frequenza, ad aghi incrociate per me è perfetto, poi ZG, no, ZG non ne prendo mai più, fine. Sì Marco, ma ZG te lo sto dicendo anch'io, è una cosa così, sì, ma quando ad aghi incrociati, come visione del quadro non è così chiaro come quello, però è Marco, per cui tu hai parlato di qualcosa di veramente chiaro da vedere, da leggere, certamente ad aghi incrociati l'ho anche sottolineato poc'anzi io, a me mi piace di più quello ad aghi incrociati, ma se tu stesso mi stai dicendo che hai un problemino, e allora questo al quadrante bianco tutto quanto è leggibilissimo, vabbè, comunque vedi tu, comunque questo costa 79 euro per la cronaca, l'ho visto io sul computer, mentre invece l'801 CN mi sembra, CN 801 costa intorno ai 120 o qualcosa del genere, grosso modo quel prezzo lì, Marco, riprende e fai girare. Costava 120, adesso credo che sia intorno a 130-140, poi con la spedizione diventano 150, quindi devi preventivare una cosa simile. Comunque volendo risparmiare, questa era un'ottima alternativa, purché Diamond originale, perché hanno fatto i cloni Proxel, i cloni Oxin, poi possono essere accurate lo stesso, però comunque è una valida alternativa, bello, vale il prezzo che costa, 79 euro è buono quello. Scusate un attimino, te ne ho mandato un altro che a me me l'hanno a sua volta mandato, io l'ho girato a te, proprio di quello che stavo parlando un attimo fa, l'801, anche quello ha un quadro molto grande, molto bello, è probabilmente quello che fa per te, vedilo su WhatsApp sempre. Ok, grazie all'amico che me l'ha mandato, così nel frattempo l'abbiamo girato anche a Marco, così decide cosa fare. Ok, avanti Robe. Sì, allora, ma poi a 50 euro secondo me vabbè, lui non gli piace nero, ma se è illuminato te lo illumino, non è che cambi più di tanto, fa fino a 1300, ho visto, non me l'ha parato, fa da, sembra dal 0 a 1300, per cui se lo usi anche per altre cose, c'è uno strumento utile anche per le V e per le U, se per dire devi accordare qualcosa. Allora sì, CN801, guarda, è spettacolare, guarda, a parte che è enorme lo strumento, anche senza luce ha una luminosità estrema, che dire, perfetto. Poi vabbè, io lo voglio nuovo o niente, perché per via della garanzia anche sai meglio quello. Ha detto bene il costo dell'801, ma e a pigliarla se non sbaglio mi sembra di ricordare 117-120, una cosa del genere. Comunque poi si sa, da negozio a negozio ci può essere anche una differenza, lo sappiamo benissimo. Bene bene, avanti Gianni, tu ce l'hai il ZG? Ce l'ho anch'io, ne ho due addirittura, però devo essere sincero, non mi piace, ma come ha detto Roberto, sono generosi, quadro grande, leggibilissimi, però non lo so fino a che punto sono affidabili. Vai Gianni. Vabbè, questa come sentite è stata modificata, Natalino lo sa perché è venuto in tour, l'ha modificato e c'è qualcosa all'interno di diverso, va molto bene questo qua, accorda, perché quando l'antenna comincia a mandare stazionare accordava e mi buttava giù le stazionari, quindi il fatto che ci sono qui, per cui lo vedo bello grande, fa stazione, bello luminoso. Sì, ma te l'ho detto già, è grande, ha un quadro grande, luminosissimo, che poi tra l'altro se non fosse illuminato si può anche illuminare, non è un problema. Io quello che ho io ad esempio è illuminato, il TM1000, però devo essere sincero che fa anche da accordatore, ha due strumenti, non uno, due strumenti addirittura, e a vederlo è anche bello a vederlo, però devo essere sincero, io non è che ci faccio molto affidamento come diciamo così, come registra il segnale di tutto e di più, per cui non lo so. Vabbè, comunque vediamo se c'è Danilo ancora. Danilo non c'è. O Giulio, sta controllando lo Smitter, che stavo toccando quella vittina ed era secondo me anche quella vittina che canta Parivati Sui. Sì, sto controllando lo Smitter. Sono salito da te a 9. Ok Dani, allora se mi permetti ti do un piccolo suggerimento. Per fare la taratura di quella freccetta lì, tu devi mettere innanzitutto lo strumento in piano, possibilmente a livello, su un piano che sai benissimo che sia a livello, come cosa, e lo fai risultare giusto nell'attacca iniziale, proprio centratissimo, e poi si verrà. Però dagli anche una tussatina di disossidante, probabilmente sarà quello anche che lo frena, che lo sa, può essere tutto, insomma, ecco. Vedi un po' tu se riesci a metterlo a posto, se no lo devi sostituire, è tutto lì, Dani. Se posso fare un'osservazione? Certo, come no, ci mancherebbe altro, non è che quello che si dice sia Vangelo, no. Ascoltiamo il parere di tutti, ciao Massimiliano, avanti. Sì, no, giusto un'affermazione per Danilo, là. Ah, non è il fatto che tu metti la radio in piano e ti regoli bene lo Smitter. Lo Smitter vuole fatto con gli strumenti, sotto lo strumento vuole fatto, capito? Vabbè, però più o meno ti puoi regolarlo così, a occhiometro, ecco. Non è una cosa perfetta, tutto questo volevo dire, non altro. Ok, va, riprendete e rimango in ascolto. Adesso l'ho smontato, l'ho ripiattato quello che avevo da parte, e quello che ho da parte proprio manco lo fa muovere, manco si muove appena appena, proprio tipo un terremotino leggero, e questa qua che avevo piazzato l'ho aperto, l'ho tirato due soffiate, stavo guardando se c'era qualcosa con la lente di ingrandimento, qualcosa di particolare rovinato, invece non c'è niente, sicuramente era appena appena di polvere anche sicuramente. E l'ho provato a collegare quando stava parlando Natalino e ho visto che è salito tranquillo. Se ha di quelle bombolette d'aria, ascoltami un po' di quelle bombolette d'aria. No, ma adesso già ho visto che già sta andando. Ma il trivellino non l'hai toccato, quindi, Dani? No, manco si muovono quelle vittine. Quelle vittine proprio sono messe col bloccafiletti, con quella colla strana viola. Comunque già ho visto che già stavo andando adesso. Ok, quindi non c'è stato bisogno, no? Perché li mettono al blocco, una volta che sono tarati li mettono tipo c'era la cassa sopra, quelle sono delle resistenze variabili, basta che le tocchi un peluzzino e li cambia la resistenza, per cui l'indicazione cambia totalmente. Ma se si è risolto così, magari c'era qualche particella di polvere, di qualcosa, qualche granello che magari te lo bloccava. si piazza tutto e più o meno se le regolazioni andavano bene dovrebbe ritornare tutto come era prima. Prova a ridarci il segnale Dani, a vedere come arriva adesso. Un attimino che ce l'ho in mano, non ce l'ho attaccata la radio. Ho fatto il collegamento veloce appoggiando i cavi. Un attimino che devo risaldare i cavi nuovamente. Ah, vabbè. Poi vediamo un po' se si, che se coincide più o meno. Ma volevo capire se è uno trimerino o quello con l'ago che funziona tipo, come si chiama, l'indicatore della benzina della macchina, oppure quelli tipo il baracchino, la lampada 48 che ce l'ha in orizzontale, che si muove in orizzontale e scorre in piano. No, tipo quello della lancetta della macchina che va a girare a un quarto di luna, da. Ok, quindi sì, diciamo un pochettino più facile da vedere, dai, perché quello dello smitter del coso, come dire il contraccolpo, tu guarda, sono tutti 9+30 se sono segnali furti. No, con questo me lo ripiazzo, perché soffiato, l'ho soffiato, lo ripiazzo e vediamo come va. Se no me ne tocca comprarmi uno nuovo di pacca. Non so neanche dove li trovi quelli lì, non è così semplice, vabbè, si fa più fretta a trovare un altro baracchino e si stacca da un altro, se le misure sono uguali. Massimiliano, sei in sicuro X o ci sei per parlare? Su internet ci sono. Sì, sicuramente su internet trovi tutto, però dico qua a Sassari ci abbiamo solo due possibilità, Fusaro e GBC, però non ne ho visto mai sinceramente di questi anni fa, sì, ma adesso ormai era tutta roba esotica, non riesce a trovare un'antenna, ha chiesto per dire Riccardino anche a Grassi se c'aveva qualche Mantova, qualcosa, niente, non c'è più. Comunque la Mantova Turbo è stata sostituita da questa nuova 827 che ha 16 radiali. Comunque Robert, l'ho collegato come gli altri tu e gira a camere da solo. Gira a camere da solo? Sì. Aspetta un attimino, quindi cosa può essere? Ma in trasmissione va? Se ti collegi la camera da solo in trasmissione non va, non la riceve e non trasmette. Cacchio, cosa vuoi che ti dica? E non è che è stato manomesso dall'interno, qualcosa lì, hanno fatto qualche modifica, dove le salvature sono originali l'interno dell'apparato, Luca. È originalissimo. Sono così robe. Visto che c'erano tutti i 6 fili collegati. Poi a differenza del tuo, io il giallo non ce l'ho, c'ho il verde al posto del giallo, perché c'è bianco, allora c'è calza, poi c'è il verde, blu, rosso, bianco e nero, capite? Sono diversi. Ma il microfonino è quello verde, sì, con l'up-down. Ehi, era proprio questo Mobicom, è quello lì, quello che mi ha dato Natalino, poi io ho un M93 che devo dare, dovrebbe venire a stasera a prendere, sono Giovanni, adattato a quella radio lì. Senza la down direttamente diretta. Però io ho un Intec Multicom a 8 puli, quello nuovo, originale, mai toccato col suo microfono originale, e devo guardare quello, dai, mi guardo quello lì quando ho 5 minuti di tempo e ti do le informazioni sperando che il colore. Tu cosa hai detto? Cos'è che non corrisponde al colore, Luca? No, quello che non corrisponde è che, cioè, da me erano tutti e 6 fili agganciati, che dalla fretta li ho sganciati senza segnarmeli. Sì, ma tu mi hai detto che i colori sono diversi, ci sono colori diversi da quelli che ti ho dato io. Io ho il verde al posto del giallo. Boh, non lo so allora, dovrei vedere l'altro, magari sarà un altro tipo di capo, per dire un fornitore diverso che gli ha dato. Vabbè, ma se è solo un filo non c'è da sbagliare. E guardate che li hai messi nell'ordine esatto che ti ho dato io, 1, 2, 3, 4, tutto esatto, Luca. Certo, me li ho messi così, non e gira i canali da solo, vabbè. Poi ho notato che non c'è manco la capsa questo microfono, se per cavolo l'ho messa, vabbè, là. Se ne riesco a procurarli, perché secondo me il problema di PTT che non funziona, non so più che sicuro. Ma non è che c'è qualche filo che per sbaglio, qualche peluzzino del carretto si sta toccando uno con l'altro, Luca? No. Perché magari sono sottili quei filetti, magari c'è una saldatura che magari sta facendo spessore, boh. Allora, Luca, tutorial, ascoltami, prendi uno spinotto che vada bene al baracchino, ascoltami, poi prendi uno spezzone di filo a 6 fili, visto che hai l'up-down, e glieli saldi allo spinotto, lo infili nel baracchino dopo che hai sferrato l'altra parte di questo filo, a uno nel microfono normale, originale, inserisci dentro e vedrai che trovi subito in 5 minuti trovi il collegamento giusto, un pezzo di carta e una penna e ti fai lo schemino nell'ordine come hai infilato i fili dentro lo spinotto e poi segui l'ordine per saldare, è semplicissimo. Vabbè, non è così, no. non è semplice, stiamo parlando di 6 fili, non di 4. Il 4 non me lo metto in tasca, me lo gioco proprio di 4, ma di 6, perché questo qua, l'up down, non so manco quali sono. Se io riesco a capire chi sono i fili dell'up down di questi 6, io con i 4 sì mi gioco a voglia. Allora, tu i fili li prendi e di cortocircuiti insieme e trovi subito i due fili dell'up down, li trovi subito e te li metti da parte, poi prendi gli altri 4 fili restanti ed infili dentro il microfono, dentro lo stinotto, come ti ho detto, e trovi subito il collegamento. Poi, per collegare i due fili dell'up down, se stai utilizzando un microfono a 6 punte va bene, se no quelli li elimini, li nastri, li fai quello che ti piace e vedrai che lo trovi subito. 5 minuti ci vuole. Vabbè, lo farò, va, riprende. Ok, vai Gianni lo riprende, vediamo un po' se Danilo ha saldato lo smittere. Avanti Dani, facci vedere lo smittere come funziona. Oh, niente, cazzo, quando mi raggio in mano che questa cosa funziona, lo mollo, ho attaccato alla radio e ce ne va per i fatti suoi. Ma non è che lo stai stringendo troppo con la vite? No, non l'ho toccata la vite, ho visto che era col blocco a filetti e l'ho lasciata così com'è. No, la vite è per fissarlo al pannello, sto parlando, che mai fa leggermente si deforma, ma gli hanno sostituito la vite, ci vuole un gommino sotto, fa un po' di leva e mai te lo blocco. No, neanche, è ancora volante. È ancora volante, non l'ho ancora bloccato. Allora, non so cosa dirti, può essere allora astaratto, boh. Dobbiamo mettere la prova con un altro smitter e vedere se dipende dall'apparecchio o dal coso. Perché quei triberini, anche se sono sigillati, molte volte si ossidano, per cui cambia di resistenza, basta un peluzzino ed è un problemino. Però prima di fare qualunque cosa, come avere la certezza con un altro smitter, lo provi, lo attacchi e vedi se funziona. Se non funziona anche con uno smitter che sei sicuro che funziona, a quel punto è quel trimerino. È successo a me su altri tipi di cose, vuole pulito bene oppure sostituito, perché è una resistenza variabile quello lì, si pulisce, si soffia con un po' di contatti, stai per i contatti e poi proviamo da una parte e dall'altra, tanto fa piccole regolazioni. Sì, adesso sei salito a 9 più tranquillo. Provate a ognuno a farmi un passaggio anche corto per vedere se va tranquillo. Incomincio io, dai. 9 più 20 deve essere segnato, perché è lo stesso segnale che mi stai arrivando tu. Allora ti lascio la portante fissa in modo che non ti inganni l'oscillazione della modulazione. Vai. Ecco. Adesso sei salita a 9,10, appena appena di più di 10. Quello lì era il picco fisso. Mi accompagno un attimo. Va bene, dai. Non so cosa dirti. Non gli hai messo un po' di disossidante? Non gli hai messo nella freccetta? Perché può essere quello che magari è sporco all'interno, che lo sa? No, adesso mi sa che gli metto il vaselina spray, che è molto più delicato del CRC, di quello antiossidanti. Prova, dai una sfruttativa di quello e una soffiata così e vedi un po' se migliora la situazione e dunque no. Vabbè, comunque vedremo. Gianni, ci sei? Ma esco un attimino a prenderlo e arrivo subito. Chi era questa modulazione bassa che non ho capito? Ah, è possibile, hai detto una cosa giusta, è possibile anche quello, che sia smagnetizzato, è probabile, sì, in effetti non ci avevo pensato, può essere anche quello, Antu, è vero. Beh, vabbè, comunque, vediamo un po' che se riesce a risolvere, se no se lo dovrà cambiare, già si trova, non so se si trova qui a Sassari, ma qualche volta già l'ho visto da Fusaro esposto sulla vetrinetta che ha nel banco, ma non so se ce l'ha ancora, staremo a vedere. Va bene, dai. Chi è che vuole riprendere? Avanti, si è allontanato Roberto, Gianni quanto sembra non c'è. Vediamo chi c'è rimasto, chi vuole riprendere. Marco? Aspetta un attimo, scusa. Danilo. Dimmi Lu. Ma di che cos'è questo smitter? Non t'ho capito. Di che cos'è questo smitter? È quello del segnale della radio. E che radio è? Il Galaxy Saturn. capito. Ma com'è, com'è messo? Mandami una foto. Adesso te la mando, adesso te la invio. Questo è già un problema, perché il mite del, del garage di Saturnecco, quello lì non lo so se, se si trova, bisognerebbe chiedere fuori, perché qui di sicuro non, non, non si trova di sicuro, perlomeno qui a strada non credo. Marco, ci sei? Comunque anche a me questo qua si è inchiodato, non, non viaggiava bene, gli ho mollato la vittina e l'ho ripresa a funzionare, sta sempre funzionando bene. Ok, sì, Antonio, può essere che si sia bloccato magari chissà per quale motivo, forse è smagnetizzato come stavi dicendo tu poc'anzi. Vabbè, si sa, prima o poi sono componenti elettronici che prima o poi, cioè hanno la sua durata e basta, però poi al limite si richiede da fuori e si fa arrivare, suppongo che si trova fuori, almeno si troverà di sicuro. Qua non credo, o qua nemmeno, nemmeno a perdere tempo andare in giro se è stato un eco. Se fosse stato un semplice Pluto, un semplice Garage 2, un Typhoon, tutti questi qui, magari è probabile che si possa anche trovare qui a Sassari, ma quello del Garage Turbo, del Garage ecco, Saturnecco, o i manca pensare a Sassari. Va bene, dai. Avanti, ci sei Marco? Diciamo di no, dai, sto cucinando qualcosa, dai. E quindi consideratemi in QRX fino a nuovo ordine. Non so nemmeno chi c'è perché ero nell'altra stanza, dai, riprendi tu, fa girare. Sì, ma anch'io mi devo allontanare adesso, dai. Rimetto il microfono a Luca e poi ci penserà lui con Danilo e Antonio, eccetera. Avanti Luca, dai, mi allontano, vediamo un po' cosa vogliono, che mi hanno chiamato, devo scendere giù al piano basso. Vediamo cosa vogliono. Vabbè, riprendilo. Chi c'è rimasto a parte Bombolo qua? Io e tutti morti. Vabbè, dai, a voi, ciao, ciao Antonio. Mi sto mettendo i fornelli, Robè. Volevo appunto detto fate girare, poi casomai se posso rientro dopo, ok? Vai Robè. Ehi, ok, perché sono andati via tutti? Chi c'è? A momenti, dai, a momenti. D'altronde ci sono già un po', io dal pomeriggio ero che non radio mi. Dal primo pomeriggio c'era Giovanna e Antonio Pomponio, poi si è aggiunto Fabio Master, poi abbiamo fatto delle prove sul 15 anche, e poi ho sentito che si è riempito di botto il 10 quando siamo rientrati. Ok, a dopo, ciao. Ciao. Cos'è tanto? Non ho capito. Io, Robè, hai chiesto a me? Ho parlato Antonio, però non ho capito quello che aveva. Ah, no, ho capito che sta arrivando forte. E vabbè, vorrei vedere. Ma era giusto per farlo girare. Comunque, va, buono, Bergamo. Caspita, tanto di guadagnato se arrivo anche lì. Con l'aiutino, ovviamente. E se no con 3 watt dove vai? Mando vai, 6 watt non ce l'hai. Vai, Robè, dai, QRX. Datemi 5 watt dentro. Sì, come ci ha dato Antonio, scusa, per parlatore, quindi Marco, cosa hai detto? Non ho capito. Vabbè, ma Giulio non c'è più. E sono aspettato 5 minuti, non c'era più nessuno, c'erano tutti, è rimasto Marco in Corex, Marco, come si chiama? Gli hanno detto, mi sposto, poi sono aspettato 5 minuti, sono spariti tutti. Giulio si è sentato adesso, Ah, vabbè, dai, allora lo telefono, devo chiederle una cosa di lavoro, non inerente alla radio. Va bene, ciao a tutti, no, io rimango in Corex, dai, non ho voglia adesso. Io quando entro presto mi stanco subito. Ciao a tutti, ci sentiamo stanotte, ciao. Via, ciao Claudio, ci sentiamo, ciao ciao. Claudio, abbiamo infranto il record degli ultimi anni, Ieri notte con alcuni, non so se ci fosse Giovanna pure Pomponio, abbiamo fatto 1:15 di notte. Tu pensi che io non ti abbia sentito? Io la radio la accendo la mattina alle 8 appena mi alzo e la spengo quando mi curico. Sono entrato a spegnere la radio e ti ho sentito che stavi parlando con Giovanna. E forse era sì, 1:15, 1:20, dai, quasi 1 era comunque. Poi sei continuato, non lo so, ma io a quell'ora ho spento la radio. Io il 4:30, il 4:40, il 140 li accendo dalle 8 fino a quando mi curico, rimangono, anche se non ci sono, se non parlo sono sempre accesi tutti i santissimi giorni. Così facevo quando andavo al lavoro e così faccio adesso. Ho accendevo alle 6 del mattino, il volume a zero, e le lasciavo accese. Quando rientravo alle 2:30 erano sempre accese e le lasciavo accese sino alla notte. Vabbè, già ti ho sentito, hai fatto bene, vuol dire che avevi voglia di parlare. Io mi stavo guardando Ciao Darwin e quindi non sono entrato. Va bene, buon proseguo a tutti, dai, che chiamo, devo chiamare a Giulio, mi serve una consulenza su un mobile. E cosa c'era di argomento? Io ce l'ho fino alle 10:15, 10:30, poi me ne sono andato. Che eravate tu, Giovanna, Pisci, chi c'era poi? Fabio? Ieri notte io credo Pomponio, poi è entrato zio Fester che entra un po' sul tardi, Giovanna se n'era andata perché doveva modulare dal terrazzino, quindi a una certa ora della notte cominciava a fare fresco. Lì pochi eravamo, comunque ci siamo prefissi, no, vabbè, detto per scherzo, no? Di ogni notte cercare di passare questo record, cioè almeno un minuto in più, però dobbiamo andare sempre più tardi a letto. Chi c'era? Joe Foster, era Joe Foster. Zio Fester, vediamo se l'ascolto. Zio Fester, ci sei? È un vecchio CB. Non dico il nome proprio, magari, perché lui è l'uomo che deve rimanere nell'incognito, diciamo, dai. È un coetaneo con cui parlavamo da ragazzini, fine 80, inizio 90, sui canali nostri. E la modula? Diciamo Viale Italia in fondo, dai. Non lo conosco, ma sentito. Avanti, chi era che chiamava? Antonio, tu? Chi c'è? Gianni, è rientrato? Ho sentito qualche domanda. Sì, sono io, dai. Sono rientrato per avvisarvi, dai. Stavo piegando la roba che mi sono ritirato. E c'è questo bene fa. E che cosa sei? A dopo, dai, ciao. Aspetta che vi avete sovramodulato uno con l'altro. Cosa hai detto, Luca? Prova. Va un po'. Non stai uscendo di radio. Ora. Non stai uscendo di radio. Opa, adesso 1, 2, 3, prova, va bene con questo microfono. A buio, una bomba, Ok. Ma sempre quella radio famosa, no, è Mobico. No, questa è un'altra, Questa è una bella radio, bellissima. Sto provando una radio, se va bene di radio, Ok. Adesso ho adattato il microfono da MB+4. Mi state dicendo che va bene? Perfetta, bellissima, forte e chiara. Ah, ok, avanti, che c'è rimasto? E dici che radio è però, se cioè noi siamo curiosi. No, io non dico niente in radio, una radio è già, non dico più niente in radio io. Fai bene. Via. Ma faccia in piazza che tu. Fatta giù visto, amoreggiando Salvi. Ehi, ti ho visto, sto scherzando. E fai bene, prendi un po' d'aria, va bene. E poi Maria non è venuta con me, sono andati qua dietro casa mia. Fai una passeggiata con i cani. E niente, adesso sono a casa sua e sono a casa mia. Aspetta la radio tua solita, così è Luca. Sì. Questa è la più bella di tutti, quella che usavi sempre, questa cosa è il typo, no? Il typo così. Figa. Questa è la tua radio, così ti dobbiamo sentire. L'altra si fa la voce di Mario Masso, eccola. Esagerato. 30 anni di più ci avevi. Mi verrebbe da dire, davvero. No, questa è la più bella di tutti, l'ho sempre detto, una bella radio, pulita, bella squillante. Davvero. Buonasera. Davvero. Ciao ritardi, ok, chi c'è? Natalino, tu che hai capito? Ciao Luca, la mia. Ma vero? Ma cosa vuoi? Ti posso squillare il telefono? Così ti faccio squillare un telefono alle 2 di notte, bello bene. Io alle 4, capito? Scusa, qua tua moglie sveglio, Concetta sveglio, cosa dici? E così ti faccio tirare una fucilata da lei io. Luca Puggioni, lì si trova la testa. Riccardino, cosa ci racconti? Cos'è combinato con quella Game Master? Trappe di nuovo con la Game Master, scusa. io le ho trovate, le ho trovate l'uscito quando stavo cercando l'antenna, c'era sia la mantova 1 che la mantova 5 che la mantova 4, tutte e tre, però adesso a dirvi chi è il sito non me lo ricordo. Cercando l'ho trovata, ma proprio di fortuna. E comunque ci sono anche i furi, le mantova, le vendono anche da furi. Cava, non mi ripeto. Stavo guardando anche io, ce ne sono tanti di negozi che le vendono, però poi c'è scritto articolo esaurito, c'è il prezzo, la mantova a tubo è stata sostituita dalla 827 che ha 16 radialini, più piccoli li hanno fatti, anziché utilizzare quelli più lunghi, sono molto più corti, e costa adesso mi prendo intorno ai 150.